Con Thomas Torelli, regista del documentario Choose Love, che sarà presentato nuovamente a Roma, al Cinema Barberini, lunedì 17 dicembre. Thomas, ben trovato. Buonasera a tutti, buongiorno. Ce lo descrivi? Bene, questa è una nuova avventura che è un po' ispirata al film precedente Un altro mondo. Mentre in Un altro mondo cercavo di raccontare la possibilità di creare un mondo con un punto di vista diverso, raccontato dai nativi d'America, dalla filosofia dei popoli ancestrali, dalla teoria quantistica, qui invece cerchiamo di cominciare ad andare più in maniera verticale e approfondire i temi. Quindi questo film nasce un po' da una frase che ho letto in un libro di Deepak Chopra che diceva: smettila di avere ragione. Quando ho letto questa frase mi sono molto commosso, perché ho pensato che in realtà basterebbe un attimo per cambiare la visione del mondo. Basterebbe la gente comprendesse che la ragione non è null'altro che la rappresentazione del nostro ego, il nostro subconscio, la nostra educazione e quant'altro. Comprendesse invece le ragioni dell'altro, perché potremmo diminuire di molto tutti quanti i conflitti del mondo. E quindi da qui poi nasce il film. Beh, Sì. Come l'hai sviluppato? ci sono delle storie vere di persone che sono riuscite a lasciare andare, a perdonare dei fatti molto grandi. Partiamo dalla storia di Nelson Mandela, che è una storia incredibile. Ci pensate, Nelson Mandela è stato 27 anni in carcere e dopo 27 anni di prigione ha deciso di inserire nel suo governo, dopo che è diventato capo di Stato, le persone che l'avevano imprigionato. Questo perché l'ha fatto? Perché sapeva che se voleva creare quella che lui chiamava nazione arcobaleno, doveva in qualche modo fare atti di grande coraggio, ma anche di grande comprensione. Riprodurre l'odio che ha generato tutto quello, l'apartheid e quant'altro, non avrebbe fatto nient'altro che ricreare la stessa spirale di odio al contrario, e per interrompere quell'odio serviva un gesto di coraggio, quindi un gesto d'amore. Il titolo del film, Choose Love. Ovviamente ci sono delle storie, diciamo, tra virgolette, minori, cioè di persone comuni, che però sono riuscite ad andare oltre, a perdonare delle cose molto gravi, e si rende conto che in realtà per assurdo è la migliore scelta. Sì. Per assurdo, perché l'istinto, uno, quando subisce delle cose, vorrebbe giustizia in maniera tradizionale, ma a volte la giustizia tradizionale non serve per migliorare il mondo. Infatti poi ci sono ovviamente controprove scientifiche, ci sta Bruce Lipton, ci sta Harrington, che è un luminare psicanalista, che ha fatto tantissimi sforzi sul perdono, insomma ci sta Deepak Chopra, ci sono tantissimi personaggi, e poi c'è la storia degli aborigeni australiani come fase del percorso antropologico. Stavo pensando, ma il perdono relativo a un torto subito non dovrebbe presupporre da parte della controparte uno sforzo di riparazione a quel danno? Ma sai, a volte noi lo facciamo, è chiaro che se c'è dall'altra parte un atto di scuse è tutto molto più facile, ma secondo me bisognerebbe riuscire a farlo a prescindere, perché quando portiamo l'odio nel cuore, quell'odio fa male più a noi che alla persona che ha commesso quella cosa. E poi c'è una parte del film in cui facciamo parlare un ex detenuto e Gerardo Colombo, e tutte e due in maniera ovviamente diversa, posti separati e con studi e preparazioni separati, in realtà giungono alla stessa conclusione, che l'odio non è educativo. Se tu vedi una persona e la punisci, non la stai educando, la stai punendo. Ma odio più odio non può fare amore, odio più odio farà odio al quadrato. È per questo che in Italia e in tutti i paesi in cui c'è un sistema di punizione, cioè un carcere comunque punitivo, e c'è una percentuale di persone che commettono lo stesso reato, reati comunque diversi, che li fanno andare in carcere del 69%. 69% persone che vengono ribeccate, quindi immaginate quelli che in realtà non si fanno beccare la seconda volta. Sì. Mentre in tutti i paesi del nord Europa, che stanno sperimentando un sistema diverso di detenzione, quindi educativo, spesso se è stato delinque o commette gli errori è perché è stato educato in qualche modo in maniera sbagliata. Quindi riformattiamo tutti quanti i programmati in un certo modo, riuscire a riformattare la programmazione e reinserire dati nuovi che si basano su altro tipo di educazione, sull'importanza del lavoro, su queste cose qua, forse può creare una società diversa. Sì. Ma la giustizia super partes dovrebbe non basarsi sull'odio. Ovviamente no, ma è l'educazione, il sistema carcerario che in qualche modo probabilmente, non dico che si basa sull'odio, ma si basa comunque sulla punizione. La punizione probabilmente non educa. Certo, l'annichilimento soprattutto. Sì, perché se la persona è arrivata a fare delle cose, probabilmente perché non c'è avuto la giusta educazione, probabilmente perché veniva da un tessuto sociale super svantaggiato. Ora, questo non vuol dire ingiustificare le persone, assolutamente no, vuol dire però cercare di mettere in condizioni di non ricreare lo stesso reato quando escono di prostituzione. I tuoi interlocutori che soluzioni hanno in mente? Ma guarda, questo è chiaro che in questo film, come spesso negli altri film documentari precedenti, si crea una panoramica molto ampia, in cui in realtà io non amo molto dare soluzioni, cioè mi piace raccontare, emozionare, cercare di comprendere da quanto punto di vista, poi ognuno si avvicina a questo punto di vista ovviamente in maniera separata. È chiaro che per ciò che concerne per esempio il carcere, Gerardo Colombo dichiara ufficialmente che ha lasciato la magistratura perché a un certo punto si è reso conto che questo sistema carcerario non funzionava e quindi mandare gente in prigione era totalmente inutile e quindi voleva in qualche modo creare una seconda cosa e quindi sta contribuendo a questo attraverso le liste, attraverso le cose che potesse un carcere educativo. Mentre gli altri testimoni di persone che hanno subito dei torti gravissimi ti raccontano di come in realtà quando sono riusciti a trasformare l'odio in qualche altro sentimento hanno capito che in realtà hanno smesso di soffrire. Quindi l'odio è un sentimento distruttivo che distrugge chi lo porta. Sì. Quindi comunque ci guadagni a cercare di lasciare andare l'odio. Poi ovviamente Lipton ci parla invece della parte della biologia, quindi tutta quanta la parte che è legata alle frequenze, al fatto che un certo tipo di frequenze noi possiamo creare un mondo diverso, sì. E quella di genetica, sì. E cita ovviamente anche Lipton, che è uno dei scopritori della genetica. Quindi no. Anche in questo film è visto dal punto di vista scientifico, dal punto di vista personale, di persone che hanno in qualche modo vissuto queste cose. Thomas, nei tuoi film precedenti hai sempre, diciamo, utilizzato il crowdfunding e l'autofinanziamento come strumento. Anche per questo film è valso questo metodo? Assolutamente sì, ormai più che mai credo che questo sia il metodo di finanziamento del futuro, se si può fare cose, come diceva il buon Fabrizio De André, in direzione ostinata e contraria. Ed è bello. Questo progetto è stato finanziato da 1172 persone e non importa tanto quanto abbiamo messo, perché c'è chi ha messo 5 euro, c'è chi ha messo 10.000, è invece bello e importante il fatto che sia un film voluto dalla gente, e quindi è una filosofia che amo tantissimo e che sposerò in ogni progetto. Anzi, spero che diventiamo in qualche modo una comunità che si allarga sempre di più, anche perché siamo sempre di più a volere questi progetti, siamo sempre di più in qualche modo a renderli possibili, stiamo facendo dei numeri, delle proiezioni incredibili e questo è bellissimo, perché un film autoprodotto, autodistribuito, sta facendo sold out quasi tutto l'Italia ed è stupendo. Ecco, a questo proposito ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente, dal sito unaltromondo.net si può trovare sia il DVD che tutte quante le tappe delle proiezioni, molte delle quali in questa fase ci sarò anch'io, col successivo dibattito e quant'altro. Sempre a Roma ci sarà lunedì a Barberini. E allora ricordiamo questo appuntamento al Cinema Barberini lunedì 17 dicembre. Per il documentario Choose Love, alla presenza del regista Thomas Torelli. Thomas, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, Fede, è sempre un piacere sentirvi, salutarvi e abbracciarvi di tutto. Grazie mille. Ciao.